Quante volte seduto sugli spalti a vederti cadere nei tuoi primi salti. Tu da piccolo, il mio campione. Quanto tempo rubato alle mie cose per vederti volare sulle tue ruote. Il più bel sogno per tutti noi. Chi ha stabilito di portarti via, al tuo battito ha dato un'altra via. Però adesso lo sa che tu ci manchi. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande su dei pattini che volano fra gli angeli in azzurri cieli. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande che fa miracoli in terre a noi così lontane. Che emozione portarti alle tue prime gare, pochi anni e subito la nazionale. Che bello vederti salire sul podio. Adesso che sento la tua mancanza, le coppe lucidate nella tua stanza, il completo azzurro fra le mie mani. Le note che nascono da un pianoforte, una canzone per te, per la tua strana sorte. Una canzone per non farti più dimenticare. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande su dei pattini che volano fra gli angeli in azzurri cieli. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande che fa miracoli in terre a noi così lontane. Continua a guardarci dall'alto dei cieli, insegnaci a vedere con occhi sinceri, insegnaci a vivere e ad amare. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande che fa miracoli in terra a noi così lontane. Iori sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande su dei pattini che volano fra gli angeli e tutti i cieli. Sei nei miei pensieri, sei l'immagine, l'immagine di ieri. Sei un cuore grande che fa miracoli in terra a noi così lontane. Iori sei nei miei pensieri.